Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti del sabato, buon pomeriggio da Andrea Ferro. In apertura la riforma dei porti, che da settimane seguiamo da vicino per le ricadute che questa avrà sull'intero sistema logistico nazionale. Varato ormai da settimane, il piano concepito dal ministro Lupi e quindi rivisto e corretto dal suo successore Del Rio non è stato ancora presentato ufficialmente. Se ne sarebbe dovuto discutere nel Consiglio dei Ministri di ieri, ma la questione è slittata alla riunione della prossima settimana. Il nodo principale riguarda il sistema di governance. Attualmente le autorità portuali sono 25. Nel testo iniziale i distretti logistici, praticamente delle super authority, avrebbero dovuto essere 8, prevedendo una serie di accorpamenti interregionali. Sull'onda di varie istanze geopolitiche, il loro numero è destinato a salire. Alla fine dovrebbero essere 12 o 14. Un'altra questione da definire riguarda il tema del lavoro sulle banchine. Torniamo sulle strade del sud, dove sta per iniziare un'estate difficilissima. In Calabria fa discutere il provvedimento firmato dal prefetto di Cosenza, che fino al 15 settembre dispone il divieto di transito ai mezzi di peso superiore alle 3,5 tonnellate su un tratto di oltre 100 km della statale 18, la Tirreno Inferiore, arteria fondamentale lungo la dorsale con la Campania. Deroghe sono previste per i mezzi che caricano e scaricano nel territorio e per i residenti dei comuni di Tortota e Amantea. Particolarmente critica Conftrasporto, che giudica il provvedimento penalizzante per gli autotrasportatori e chiede misure diverse, quali per esempio il divieto di circolazione limitato ai fine settimana. In Sicilia invece passano le settimane e nonostante lo stato di emergenza decretato ormai un mese fa dal governo, i lavori per la costruzione del bypass necessario ad aggirare il blocco della 19 non sono ancora partiti. Nel frattempo però il ministro Graziano Del Rio ha inviato alla Procura di Palermo e al presidente dell'anticorruzione Raffaele Cantone il dossier redatto dai 3 commissari incaricati di far luce sul crollo del viadotto Imera. Nella relazione si evidenzia che la frana era in atto già dal 2005, come testimoniano alcune segnalazioni avanzate nel corso degli anni alla Protezione Civile Regionale e all'ANAS. Dopo anni durissimi, da qualche mese anche nel settore dell'autotrasporto si intravedono segnali di ripresa, seppur timidi. Un indice che può valere in questo senso è il trend di vendita dei veicoli commerciali fino alle 3,5 tonnellate. Secondo i numeri diffusi dal Centro Studi e Statistiche di UNRAE, l'Associazione delle Case Automobilistiche Estere, a maggio le immatricolazioni sono salite del 3,5%, meno però rispetto al 7% che è la media registrata dall'inizio dell'anno. A commentare questo dato è Massimo Nordio, presidente di UNRAE. Allora, il dato della crescita di maggio del 3,5%, sebbene sia un dato in termini di tasso di crescita in leggero calo, però è una conferma del fatto che il mercato dei veicoli commerciali ha iniziato una ripresa favorita specialmente dal contributo della legge Sabatini, che di fatto consente una detraibilità sui finanziamenti sui beni strumentali, e questo conferma la reattività del mercato dei veicoli commerciali, dovremmo dire anche quello dell'automobile ovviamente, quando esiste uno strumento venga introdotto uno strumento di stimolo come questo. Noi ci aspettiamo che la crescita continui, sebbene su ritmi meno sostenuti della prima parte dell'anno, però certamente continui in linea con la ripresa dell'economia. Un sondaggio rivolto a tutti gli operatori del settore dei trasporti per raccogliere suggerimenti, proposte e giudizi sulla normativa comunitaria. A promuoverlo è la stessa Commissione europea, che attraverso questo strumento intende focalizzare una serie di aspetti che caratterizzano l'attività quotidiana di centinaia di migliaia di lavoratori. Dai tempi di guida alla sicurezza fino ad arrivare alle condizioni che determinano regole e squilibri di un mercato condizionato da forme di concorrenza spesso ritenute illecite. Per distribuire i questionari, la Commissione europea ha chiesto aiuto ai ministeri, alle autorità nazionali di controllo e alle associazioni di categoria. Il successo dell'iniziativa dipende anche dal numero dei partecipanti. C'è tempo fino al 3 luglio. E sempre da Bruxelles arriva la notizia che la Commissione europea ha aperto un procedimento di infrazione contro la Germania sul nuovo PKW Maut, ossia il pedaggio stradale che ora viene esteso anche ai veicoli privati. L'iniziativa giunge alla vigilia dell'introduzione del pedaggio su altri 1.100 km di strade federali che scatterà il 1 luglio. Secondo la Commissione europea si ravvisa una discriminazione nei confronti dei veicoli stranieri, visto che quelli tedeschi sono di fatto esonerati dal pedaggio potendo usufruire di una deduzione dalla tassa di circolazione di pari importo. Hashtag Autotrasporti del sabato finisce qui. Per parlare di autotrasporto noi ci risentiamo lunedì alle 21.45. Grazie per l'attenzione da Andrea Ferro. Buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti.